Italia in controluce. Buona giornata da Maria Piera Ceci. Dunque, da oggi ricomincia la campagna elettorale per Bersani e Renzi, che domenica prossima si sfideranno al secondo turno delle primarie del centro-sinistra. Un dato comunque è certo: più di 3 milioni di cittadini si sono schiodati dalla TV, dal calcio, da quello che insomma sono abituati a fare la domenica, e sono andati a esprimere la propria preferenza. Un dato che la dice lunga sulla voglia di partecipazione della gente, e inevitabilmente un dato con cui si deve confrontare anche il centrodestra, che invece ancora oggi non sa se farle queste benedette primarie o no. Anche stamattina, lo sapete, l'avete sentito anche nei GR, Berlusconi non ha sciolto la riserva nonostante l'intervista a Belpietro. Fra poco sentiremo su questo, dunque sulla posizione del centrodestra, che davvero diventa interessante a questo punto, l'ex ministro Meloni, che ieri peraltro ha avuto il coraggio, ha avuto l'interesse, ha avuto la curiosità di visitare un seggio del centrosinistra, dunque durante il voto. Dunque si va al secondo turno in cui sarà fondamentale anche l'indicazione di voto dei tre candidati che non vi parteciperanno. E allora Vendola stamattina ha deciso di non parlare, insomma ha molte cose da fare, molte cose su cui riflettere. Comunque stanotte già aveva parlato, aveva commentato il dato arrivato appunto nella notte, aveva detto: certo, io ho dovuto lavorare a mani nude contro due giganti, insomma non era facile questa competizione, a questo punto non voglio ragionare come ago della bilancia. E Bersani dice: se li deve conquistare i miei voti. Da parte invece di Renzi dice Renzi, dopo aver assodato, che Vendola sarà con Bersani. Quindi questo per quanto riguarda Vendola. Ma andiamo a Laura Puppato, l'unica donna della competizione, una donna che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane. Bene, ha ottenuto il 2,6% dei voti. Questa mattina l'abbiamo raggiunta. Ha dormito tranquilla stanotte? Molto, sì, io per fortuna ho questa capacità di riuscire a staccare, che è energetica oltretutto, perché sennò non mi permetterebbe di fare la vita che faccio. 2,6%, un risultato che la soddisfa, sperava in qualcosa di più, insomma come lo vede? Dobbiamo rappresentarlo così, questo risultato: una forte presenza al nord con punte del 5, dell'8-9%, una presenza molto molto inferiore a sud, dove obiettivamente, oltre ad essere io come dire in qualche modo più rappresentativa del nord per ovvie ragioni, però al sud c'è stato un gap che è motivato dal fatto che non ho avuto in 5 regioni la possibilità di recarmi. Però questo è un gap che colmeremo nel corso dei prossimi mesi, perché sta crescendo l'interesse, e quello che mi dispiace è che purtroppo queste elezioni primarie hanno avuto solo 20 giorni di tempo. Per me insomma è stato davvero un tempo brevissimo, quasi un soffio di tempo. Se dovesse guardare indietro, c'è una cosa sulla quale sente di aver sbagliato? Mi sento di decriminare non nei miei confronti, nel senso che non avevo alternative. Io ho voluto fare una scelta francescana, ho voluto portare un messaggio politico chiaro che riguarda l'ambiente, che riguarda la trasparenza delle istituzioni e la democrazia in un paese che l'ha perduta, insomma. Nel contempo ho scelto appunto di avere uno stile molto molto molto sobrio, ai limiti del quasi nulla, nel senso che non davvero abbiamo fatto tutto da soli e con il solo volontariato, insomma. Uno stile però, direi, poco renziano. E io direi proprio assolutamente lontano da quello. Tanto per dirle, i nostri incontri non erano né un comizio né uno show. Per cui dico, l'unico recrimine che ho è quello che se fossimo partiti prima con queste primarie avremmo avuto ancora più successo. Si va al secondo turno la settimana prossima. Che indicazioni, se pensa di dare indicazioni ai suoi elettori, e che indicazione pensa di dare? Ovviamente immagino ci sarà una riflessione in questi giorni. Ecco, ritengo anche questo sia un cambio di stile politico, siccome il nostro programma, come noto, era parecchio diverso rispetto agli altri. Sarà molto importante ciò che si otterrà in relazione appunto alla dinamica di sostenibilità ambientale, frutto delle necessità che ho esposto, quindi l'innovazione e la ricerca, ma anche la green and blue economy e anche questo benedetto piano di messa in sicurezza del territorio, ma dall'altro i diritti civili, la trasparenza nella pubblica amministrazione, insomma i punti focali del mio programma saranno quelli che metteremo sul piatto. Questo vuol dire che chiederà ai due candidati al secondo turno di uscire allo scoperto in maniera chiara su questi temi? Assolutamente sì, perché questo è il mandato che ho e questa è l'intenzione di procedere. Mi sembra di aver capito però, insomma, che lo stile di Renzi non le è piaciuto molto in campagna elettorale. Diciamo che lui è stato leggermente contraddittorio, in molti casi, come dire, ha sprecato molto, ecco. Renzi ha sprecato molto, dice la Puppato, che naturalmente non fa un nome preciso fra Renzi e Bersani, almeno non ancora. Vuole prima che diano risposte precise su argomenti precisi, come abbiamo sentito. Bruno Tabacci, 1,4% dei voti conquistati. Le riflessioni del giorno dopo nell'intervista a Katia Caramelli. Sapendo che io svolgevo un ruolo da esterno, in qualche modo marginale, perché non avendo dietro né la struttura del PD né quella di SEL, era inevitabile che di fronte a una polarizzazione di questo tipo tra Renzi e Bersani si profilasse una marginalizzazione del mio ruolo, ma questo non ha fatto venir meno le ragioni positive della partecipazione e del tentativo di allargare la coalizione di centrosinistra in maniera da renderla appetibile alla maggioranza degli italiani. C'è stata tanta partecipazione che ha smentito un po' l'antipolitica. In realtà c'è voglia di politica. C'è voglia di buona politica, evidentemente. Il fatto che si sia tenuta questa consultazione molto ordinata e anche molto composta è l'esempio della risposta migliore che si potesse dare. Io penso che su questa strada si possono incrociare molte persone e che vi possa essere un riavvicinamento. Bruno Tabacci, chi appoggia al secondo turno? Io tutt'al più potrò rispondere del mio voto, perché non sono il padrone dei voti di quelli che mi hanno sostenuto, che ringrazio apertamente, non avendo mai avuto una concezione proprietaria della politica, per cui una volta che avremo fatto gli approfondimenti del caso, nel giro di 24-36 ore ci sarà una indicazione precisa anche su questo punto per quel che mi riguarda. Ma ieri un seggio romano, lo storico circolo PD di Via dei Giubbonari, ha visto la visita in attesa di una che sicuramente non era andata lì per votare. Giorgia Meloni, ex ministro del governo Berlusconi. Le abbiamo chiesto che cosa sia andata a fare mentre ancora nel suo schieramento si discute se farle o no queste primarie. Guardi, volevo fare diverse cose. Volevo sicuramente andare, diciamo così, a vedere un po' come vengono organizzate primarie nelle quali vota tantissima gente, quindi insomma come sul piano logistico, diciamo organizzativo, la questione viene organizzata, ma non era solamente questo, diciamo, era anche il tentativo di rendere omaggio a una cosa giusta fatta bene e quindi un po' al di là di questo bipolarismo muscolare che sembra farla da padrona in Italia, per cui quando gli avversari fanno una cosa fatta bene non bisogna dirlo e non si può dirlo, e invece anzi l'invito alla mia parte politica, al centrodestra, a procedere con delle elezioni primarie che pure sta tentando di organizzare, perché poi quello che è accaduto nel centrosinistra e che noi abbiamo visto è che di fatto anche un confronto aspro, serrato, pur leale tra esponenti diversi, ma anche e soprattutto contenuti diversi, opzioni diverse, non può che complessivamente rafforzare l'esperienza, insomma, il partito, la coalizione. È quello che è accaduto nel centrosinistra, è quello che a mio avviso accadrebbe anche nel centrodestra quando noi avessimo il coraggio di fare la stessa cosa. Ecco, ma secondo lei il popolo del centrodestra risponderebbe come ha risposto quello del centrosinistra? Beh, guardi, questo dipende anche da quali sono le condizioni nelle quali noi operiamo. Certo è che il centrosinistra organizza queste primarie e si è mobilitato su queste primarie per mesi. Noi stiamo ragionando di fare delle primarie in praticamente 20 giorni e questo avrà per forza di cose delle ripercussioni sul dato della partecipazione, ma io credo sia comunque molto molto importante stabilire il principio, e sicuramente anche il centrodestra ne gioverebbe come il centrosinistra. Che cosa ha visto lei negli occhi della gente che era in fila per votare ieri alle primarie del centro-sinistra? Perché insomma si parla tantissimo di gente schifata dal mondo politico che non vuole più votare. In realtà poi quando viene chiamata... Guardi, quello che è accaduto ieri dimostra una cosa importante, e cioè che, come mi è apparso di dire più volte, e non sono l'unica a farlo, ovviamente la crisi della politica è soprattutto figlia della crisi dei partiti, e la crisi dei partiti deriva da una chiusura progressiva che i partiti hanno avuto, per cui da una parte noi abbiamo la Costituzione che dice che i partiti sono lo strumento attraverso il quale tutti gli italiani possono concorrere alla vita politica nazionale, ma di fatto nella legislazione vigente i partiti sono delle associazioni private, gestite da pochi, con criteri di assoluta discrezionalità. Allora, siccome c'è stata una deriva oligarchica, diciamo così, un eccesso di delega, oggi per tornare indietro serve un eccesso, tra virgolette, di democrazia, cioè bisogna fare il percorso diametralmente opposto, rimettere tutte le decisioni nelle mani degli italiani. Ieri c'erano, noi non ce lo possiamo nascondere, anche persone che magari hanno votato centrodestra, le dico di più, anche magari qualcuno che non intende andare a votare per il centrosinistra e che non è andato a votare alle primarie del centrosinistra per disturbare, come si è detto, ma perché? Per riconoscere il valore dello strumento. Quindi insomma bisogna che anche noi sappiamo capire questa domanda di partecipazione che viene dagli italiani. Stamattina Berlusconi non ha sciolto la riserva da Belpietro come ci si aspettava. Di che cosa ha paura? Non lo so, lo chieda a Berlusconi, non credo che abbia paura, francamente. Penso che stia riflettendo e quindi quando avrà deciso lo sapremo. Io so che Berlusconi dice che le primarie non sono la soluzione a tutti i mali, sicuramente siamo tutti d'accordo con lui, ma sono comunque uno strumento interessante, utile e vale la pena affrontarlo. Non credo che Berlusconi abbia paura delle primarie. Andiamo a vedere dunque se il centrodestra riuscirà a fare questo salto, no? Riuscirà a prendere questa decisione importante che sarebbe davvero storica per questa formazione. Italia in controluce si ferma qua, tornerà domani come sempre alle 13:30. Un saluto da Maria Piera Ceci.